Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Siamo distesi pancia all'aria, al sole, davanti alle baracche. C'è odore di catrame, di estate e di piedi sudati. Kat siede accanto a me perché ama intrattenersi. Stamane abbiamo dovuto fare un'ora d'esercizi di saluto perché T. Aden ha salutato negligentemente un maggiore. Questo affare non gli vuole uscire dalla testa. Sta attento, dice, che perderemo la guerra perché salutiamo troppo bene. Crop si avvicina saltellando a piedi nudi, coi calzoni rimboccati al ginocchio, e distende le sue calze a seccare sull'erba. Kat guarda il cielo, lascia sfuggire una vigorosa detonazione e l'accompagna con questa osservazione filosofica: ogni fagiolino fa il suo versino. I due cominciano a disputare e intanto scommettono una bottiglia di birra intorno a un duello d'aviatori che si svolge sopra le nostre teste. Kat non si lascia smuovere dall'opinione che da vecchio lupo di trincea esprime così, ancora in versi: paga e vitto per tutti uguale, pace garantita e generale. Crop invece è un pensatore. Le dichiarazioni di guerra, egli propone, dovrebbero essere una specie di festa popolare coi biglietti d'ingresso e banda, come per i combattimenti dei tori. Poi, nell'arena, i ministri e generali dei due stati avversari, in calzoncini da bagno e armati di manganello, si azzuffano. Vince il paese di quello che caccia l'altro sotto. Sarebbe assai più semplice e meglio di adesso che s'ammazzano tra loro persone che non c'entrano. La proposta piace. Il discorso passa poi all'istruzione di caserma e nella fantasia mi si suscita un'immagine. Mezzogiorno d'estate nel cortile. La caldura pesa sullo spiazzo deserto. Il quartiere sembra morto. Tutto dorme. Non si sente che un lontano esercizio di tamburi. Si sono ritirati in qualche angolo e picchiano senza posa a contrattempo, stupidamente monotoni. Che armonia di cose! L'afa d'estate, il cortile del quartiere e il rullo uniforme dei tamburi. Dalle finestre del quartiere, vuote e oscure, pendono pantaloni di tela ad asciugare. Si guarda su con nostalgia, perché le camerate sono fresche. O camerate piene d'ombra e di tanfo, con le brande di ferro ripiegate, le plance e i bottini allineati sopra. Voi pure potete diventare meta di umani desideri. Qui ci apparite come un riflesso favoloso della patria, col vostro odore misto di cibo stantio, di corpi dormienti, di tabacco e di vestiti. Kaczynski ce la descrive, la camerata, con lusso di colori e grande vivacità. Cosa daremmo per ritornarci? Più in là i nostri pensieri non osano spingersi. Le ore di istruzione la mattina presto. Di quante parti si compone il fucile modello 98? Le ore di ginnastica nel pomeriggio. Chi sa suonare il piano un passo avanti? Fianco destro, marsch! Presentarsi alla cucina per pelare le patate. Ci abbandoniamo all'onda dei ricordi. Improvvisamente Crop scoppia a ridere. Lene! E si cambia! Era questo il gioco preferito del nostro sottufficiale. Lene è una stazione capolinea. Perché quelli che andavano in licenza non si sbagliassero, Himmelstoss aveva immaginato di esercitarli al cambiamento di treno in camerata. Dovevano imparare che a Lene si prende la coincidenza attraversando un sottopassaggio. Le brande rappresentavano il sottopassaggio. Ciascuno di noi si piazzava a sinistra della sua. Poi, al comando, «Lene, si cambia!» bisognava in un lampo passare carponi sotto la branda dall'altra parte. Questo divertimento durava qualche ora. Mentre chiacchieriamo, il velivolo tedesco è stato colpito e come una cometa precipita in una scia di fumo. Kropp perde così la sua bottiglia di birra e paga, brontolando. Nel suo mestiere di portalettere, Himmelstoss è certo un uomo modesto, dico io dopo che il malumore del compagno si è un po' calmato. Come mai può diventare, da sottufficiale, un simile aguzzino? La domanda rianima Kropp. Non è soltanto Himmelstoss, sono molti così. Appena portano i galloni o una sciabola diventano uomini diversi, si irrigidiscono come se avessero mangiato del cemento armato. Potenza dell'uniforme, suggerisco io. Sì, quasi, dice Kat, e si mette comodo per fare un gran discorso. Ma la vera ragione è un'altra. Vedi, se tu tiri su un cane a patate e poi un giorno gli dai un pezzo di carne, quello slunga il muso ugualmente, perché è nella sua natura. Così, quando dai a un uomo un pezzetto di potere, è la stessa cosa. Anche lui slunga il muso. È una faccenda che va da sé, perché l'uomo è prima di tutto un animale. E poi magari ci hanno spalmato sopra un po' d'educazione, come il burro su una fetta di pane. La vita militare consiste in questo, che uno ha sempre potere su un altro. E il male è che tutti ne hanno troppo di potere. Il sottufficiale può sfottere il soldato semplice, il tenente, il sottufficiale, il capitano, il tenente, fino a farlo diventare matto. E tutti lo sanno, e quindi ci fanno il callo. Prendi la cosa più semplice. Si torna dalla piazza d'armi, stanchi morti. Viene il comando, cantare! Naturalmente esce fuori un canto strascicato. È già molto che ciascuno regga ancora il fucile. E allora dietro fronte la compagnia deve, per punizione, fare esercizi per un'altra ora. Al ritorno si ordina di nuovo, cantare! E ti garantisco che questa volta si canta sul serio. Ma che scopo ha tutto questo? Il comandante è riuscito a imporre la sua idea, perché ne ha il potere. Nessuno lo biasimerà, al contrario, si dirà che è energico. Questa, ben inteso, non è che una piccolezza. Vi sono ben altri modi di torturare la gente. Ora vi domando, da borghese uno può essere ciò che vuole, ma in quale professione potrebbe permettersi una cosa simile senza che gli rompano il muso? Ciò non è possibile che nella vita militare. E allora, vedete, questo potere dà alla testa. Tanto più dà alla testa quanto meno uno contava da borghese. Ma ti dicono la disciplina è necessaria, osserva Kropp svogliatamente. Motivi, borbotta Kat, se ne trovano sempre. Può darsi anche che debba essere così, ma la disciplina non deve diventare tortura. E poi spiegalo finché vuoi a un fabbro, a un bifolco o ad un operaio, a un proletario, insomma, che sono qui la maggioranza. Egli non capirà altro se non che lo sfottono e lo mandano in trincea. E una volta qui, egli sa benissimo ciò che è necessario e ciò che non lo è. Ve lo dico io, che il semplice soldato qua fuori tenga dura questo modo è un'altra cosa. È un'altra cosa. Tutti acconsentiamo perché sappiamo bene che in trincea la disciplina di caserma cessa, ma per ricominciare a pochi metri dietro il fronte, magari con le maggiori assurdità, saluti, passi di parata, eccetera. Perché v'è una legge di ferro. Il soldato deve essere sempre occupato. Ma ecco apparire Thiaden, tutto rosso in faccia e tanto eccitato che balbetta. Raggiante riesce solo a pronunciare. Himmelstoss sta per arrivare fra noi. Lo mandano al fronte. Baden ce l'ha particolarmente con Himmelstoss, perché questi lo ha educato a modo suo al deposito di istruzione. Per sua disgrazia, Theoden bagna il letto. È un inconveniente che gli capita mentre dorme. Ma Himmelstoss era arciconvinto che fosse soltanto pigrizia e inventò un mezzo degno di lui per guarirlo. Riuscì a scovare nella baracca vicina un tale di nome Kindervater che soffriva del medesimo disturbo e lo mise a dormire insieme con Theoden, uno sopra e l'altro sotto, in quelle lettiere che usano nei baraccamenti a cuccette sovrapposte col fondo di rete metallica. Quello che dormiva sotto naturalmente non poteva dirsi in un letto di rose, ma si alternavano ogni notte così da godere a vicenda del medesimo divertimento. Era questa l'educazione come l'intendeva Himmelstoss. L'idea, per volgare che fosse, avrebbe potuto essere ottima se il presupposto non fosse stato errato. Ma poiché la pigrizia non c'entrava e ciascuno avrebbe potuto convincersi solo a guardare la faccia anemica di entrambi, la conclusione fu che ogni notte uno dei due dormiva sulla nuda terra a rischio di prendersi un raffreddore. Intanto Haie viene anch'esso a sedersi accanto a noi. Mi ammicca con gli occhi e si frega con devozioni le mani enormi. Abbiamo vissuto insieme il più bel momento della nostra vita di caserma. Fu la sera precedente la nostra partenza per il fronte. Assegnati a un reggimento di nuova formazione, eravamo stati inviati alla guarnigione per completare l'equipaggiamento, non più al deposito delle reclute, ma in un'altra caserma. L'indomani presto si doveva partire. Ci accingemmo quindi la sera a regolare i conti con Himmelstoss, come da parecchie settimane avevamo giurato di fare. Kropp aveva pensato perfino di entrare, a guerra finita, nell'amministrazione postale, unicamente per diventare il superiore di quell'uomo quando fosse tornato al suo mestiere di portalettere, e già si cullava nell'immaginare come gliel'avrebbe fatta pagare. Era proprio per questo che l'amico non riusciva a domarci. Contavamo sempre di beccarlo un giorno o l'altro, alla peggio, a guerra finita. Intanto però volevamo appioppargli un sacco di legnate, tanto che cosa poteva capitarci dal momento che non ci avrebbe riconosciuto e che si partiva l'indomani all'alba. Conoscevamo l'osteria dove si recava ogni sera. Di là, per tornare al quartiere, doveva percorrere una strada oscura, senza case. Ivi ci nascondemmo dietro un mucchio di pietre. Avevo portato con me una coperta da letto. Tremavamo dall'ansietà di vedere se sarebbe stato solo. Finalmente udiamo il passo a noi ben noto. Lo avevamo sentito tante volte quando al mattino la porta si spalancava e la vociaccia tuonava «Sveglia!» «Solo», mormorò Kropp. E con Theoden girai intorno al mucchio di pietre. Vedevamo luccicare la placca della sua cintura. Himmelstoss pareva alquanto allegro e cantava. Ci passò dinanzi senza sospettare di nulla. Allora afferrammo la coperta e con un balzo, senza rumore, gliela gettammo per di dietro sulla testa, strappandola poi all'ingiù, cosicché egli venne a trovarsi chiuso in una specie di sacco bianco, senza poter muovere le braccia. Il suo canto si spense. Subito si fece avanti Haie Vestus e con le braccia allargate ci respinse indietro per essere lui il primo. Con voluttà si mise in posizione, alzò il braccio che sembrava un'antenna, aprì la mano larga quanto una pala e sul bianco sacco lasciò andare un colpo che avrebbe abbattuto un bue. Himmelstoss fece una capriola, riprese terra 5 metri più in là e cominciò a urlare. Ma avevamo preveduto anche questo e avevamo con noi un cuscino. Haie si accoccolò, si pose il cuscino sulle ginocchia, afferrò il sacco lì dove era la testa e la schiacciò contro il cuscino. Subito le grida si attutirono. aria e di tanto in tanto lo lasciava respirare, e allora gli usciva dalla strozza un bel grido chiaro che poi di nuovo s'affievoliva. Ora Tiaden sbottonava a Immelstos le bretelle e gli tirava giù i calzoni. Intanto teneva un battipanni stretto fra i denti. Compiuta l'operazione, si alzò e cominciò a farlo funzionare. Fu uno spettacolo meraviglioso. Immelstos a terra, chino sopra di lui, con la testa di lui fra le ginocchia, Haie in un ghigno diabolico sulla faccia e la bocca aperta per la gioia. Poi le palpitanti mutande a righe, le gambe storte di Immelstos che, calate nei calzoni, facevano ad ogni colpo le più strane movenze. Dietro, infine, come un tagliaboschi al lavoro, l'infaticabile Tiaden. Alla fine dovemmo strapparglielo di mano per avere il nostro turno. Finalmente, Haie rimise Immelstos sui propri piedi e volle avere una beneficiata per sé solo. La sua destra, distesa che pareva volesse raggiungere le stelle, si allungò in un formidabile scapaccione. Immelstos si abbatté, ma Haie lo rimise a piombo e con la sinistra gliene somministrò un secondo perfettamente centrato. Il disgraziato, urlando, fuggì a quattro zampe. Il suo sedere di portalettere, nelle mutande di rigatino, biancheggiava sotto la luna. Noi scomparimmo al galoppo. Haie si volse a guardarlo e disse, iroso ma sazio e un po' enigmatico: la vendetta ha buon sapore. In fondo Immelstos poteva essere soddisfatto. La sua massima, che ci si deve sempre educare l'un l'altro, aveva portato i suoi frutti. Avevamo approfittato dei suoi stessi metodi. Egli non è mai riuscito a scoprire chi dovesse ringraziare. In ogni caso ci guadagnò una coperta, perché ritornati alcune ore più tardi sul luogo del misfatto non la trovammo più. Quella serata fece sì che partimmo relativamente sereni il mattino appresso, sicché un barbone, vedendoci passare, ci chiamò commosso gioventù eroica. Schwarz, Rost, Braun, Tod, Rot, Kohl, Raben, Schwarz ist farbenfroh. Funkelnagelneu ist nichts mehr. Ich hab mein Vokabelheft verloren. Wo ist der Schlüssel? Wo ist mein Hut? Ich gehe jetzt. Wach, aber auch noch lange nicht hinüber. Schlaf mit den Zähnen geknirscht. Ich gehe jetzt. Nach mir die Flut, nach mir Tornados, nach mir Tsunamis und Säuberungen, nach mir die Härte, die Kälte, die Dürre, die Glut, mehr als je zuvor, seitdem der Mensch denkt. Es wird Zeit, dass die Erde sich endlich verspinnt, sich verwandelt, aus der Hülle sprengt. Ich geh jetzt, ich geh jetzt. Elia Shilton ha letto Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.